Fabrizio Intonti. Quando qualcuno ci dice di aver cambiato vita, la prima domanda che gli facciamo è sempre qualcosa del tipo: ma come hai fatto? Ma sei sicuro? Ma come ti mantieni? E se ti va male? Raramente gli chiediamo una cosa che non dovrebbe essere indifferente, ovvero: ma perché l'hai fatto? Forse perché pensiamo che i motivi siano un po' sempre gli stessi: lo stress, la noia, la smania, la voglia di cambiare, il tran tran quotidiano, tutte cose forse un po' da egoisti, che però non sempre sono il motivo, perché c'è gente che cambia vita per altruismo, per aiutare gli altri, per andare dove c'è bisogno di loro, per regalare tempo e energia, per cercare nel proprio piccolo di cambiare il mondo. Oggi parliamo proprio di questo. Se avete cambiato vita totalmente o parzialmente per dedicarvi al volontariato, al sociale, al no profit, 800 24 00 24. Oggi parliamo di vite che girano per salvare gli altri. Ian è il nostro... Che ti occupi? Fotografi la natura? Sì, natura, guerre, un po' di tutto. Quando ero con la CNN sono stato in Ruanda, in Cecenia, in tutta la Bosnia. Grazie. Di tanto in tanto faccio volontariato con Greenpeace. Greenpeace? Che cosa ti ha spinto? Le donne. C'è un 80% di donne in Greenpeace. Nobile. E questo spezzone tratto dal film Jurassic Park serviva per dare noi la prima obiezione o fare la prima battutina scontata che si può fare in questi casi, in cui si dice che si fa volontariato per farsi belli, per farsi vedere nobili e alti e ricchi di spirito. 16 e 6 minuti, benvenuti, questo è Giro di Vita, io sono Achille Corea, noi ogni giorno vi raccontiamo storie di chi ha cambiato tutto per inventarsi un nuovo inizio e raccogliamo le vostre storie all'800 24 00 24 su Facebook, alla nostra pagina che si chiama Giro di Vita, o via mail a girodivita@radio24.it. Oggi, dicevo, un giro di vita particolare di chi cambia per aiutare gli altri. Abbiamo subito la storia di Sara Caggiati, che dovremmo avere al telefono dalla Georgia. Benvenuta. Ciao Achille, sono Sara. Eccoci, oggi i ritardi e le linee saranno quelle che sono, perché gente che sta dall'altra parte del mondo. Allora, il tuo giro di vita, perché tu a un certo punto hai cambiato vita passando da un lavoro, tra virgolette, normale al sociale. Sì, esatto, è così. Io mi sono laureata a Bologna in scienze politiche e poi ho cominciato a lavorare in un'azienda privata per diverso tempo, un'azienda della mia regione, Emilia Romagna, e poi ho deciso di mollare un po' tutto e di lasciare la vita d'azienda e di tentare appunto una strada differente, anche grazie a un'opportunità che ho avuto di una borsa di studio presso un'università britannica. E da lì ho cominciato, ho lasciato il lavoro, avevo un posto a tempo indeterminato, ho ripreso a studiare, ho cercato di specializzarmi e da lì è cominciata la mia strada nel mondo delle ONG e delle organizzazioni internazionali. Di cosa ti occupi precisamente? In questo momento faccio la project manager per una missione di stabilizzazione di peacekeeping nel Caucaso. La tua giornata tipo? La mia giornata tipo, ma in realtà la mia giornata tipo non c'è, perché è un lavoro molto vario e forse è anche questo quello che mi stimola ad andare avanti, nel senso che io posso avere una settimana d'ufficio, ma posso anche avere una settimana in cui ci chiamano da dei field office e un team parte e si reca sul campo per fare un assessment della situazione, per cui La mia giornata tipo può cambiare molto da un momento all'altro, perché di fatto siamo un po' tutti on call con il cerca persone, per cui è molto stimolante, ma a volte può anche essere così, il tempo ti sfugge dalle mani. Come l'hanno presa quando hai detto a casa agli amici che saresti andata in giro per il mondo a occuparti di situazioni oggettivamente difficili? Ma in realtà questa penso sia la domanda chiave, perché in realtà non l'hanno presa molto bene, non parlo solo delle persone, dei colleghi che lavoravano con me tutto il giorno, tutti i giorni in azienda, ma mi riferisco proprio alle persone più strette, più vicine, gli amici, la famiglia, un po' i colleghi. Non ci sono stati traumi, però allo stesso tempo c'è stato un certo scetticismo e io ho dovuto dimostrare non solo immediatamente, ma anche un passo alla volta, che avrei potuto sostenere la mia scelta e che comunque avevo fatto la scelta giusta, non solo per me stessa, ma anche per gli altri. Senti, tu, diciamo, chiaramente hai una professionalità molto alta, master, quindi non sei una volontaria, però hai perso dal punto di vista economico e dal punto di vista delle possibilità di carriera facendo questa scelta? Ma in realtà perso un po' una domanda, in realtà no, perché comunque io quando ho mollato l'azienda ero già in una buona posizione per l'età che avevo e per quello che facevo, e poi come donna in un ambito comunque prettamente maschile, e la cosa non è cambiata, nel senso che rimango donna e rimango a lavorare in un ambiente prettamente maschile. Le possibilità economiche che mi erano state offerte quando ero in azienda erano comunque elevate, credo, per la media nazionale e anche appunto per la mia età, come ho detto. Il lavoro che mi trovo a fare adesso penso, non so, sia nella norma, ecco, no, non ho perso nulla, però sicuramente non ho cambiato vita per denaro. E allora dimmi una, perché, che cos'è che la mattina ti faceva pensare io voglio andare da tutt'altra parte a fare una cosa di questo tipo, cioè occuparmi di crisi internazionali, di sociale? Ma perché in realtà il lavoro che facevo prima comunque mi soddisfaceva, perché anche quello era piuttosto dinamico, seguivo delle commesse, seguivo il post vendita e avevo a che fare con l'estero, però sentivo che le mie competenze, una parte di quello che io avevo appreso all'università non era coperto, non era speso, e quindi c'era una parte di me che si sentiva un po' imbrigliata. E quindi sentivo che avrei potuto sviluppare ancora nuove competenze, avrei potuto dare di più anche e non per una scelta privata, ma verso gli altri, ecco questo. Dimmi una cosa, una curiosità, tu quanti anni hai? Ne ho troppi, ho superati 30, non da molto. Beh, io ne ho di più, quindi neanche io li ho superati da un po'. E la vita sociale e personale di una persona che fa questo lavoro, com'è? Non ti vorrei chiedere se c'è vita in Georgia il sabato sera, però più o meno siamo da quelle parti. Ma io direi che confrontandomi con i miei colleghi attuali e con i miei colleghi, insomma, che fanno questa stessa vita, diciamo che ci sono situazioni peggiori, come si legge sui giornali e si sente nei media, quindi non mi trovo in Afghanistan e non mi trovo in situazioni di guerra permanente, per cui penso, ecco, che facciamo una vita, diciamo, in un contesto relativamente buono, ecco, quindi non penso di aver perso delle cose, ecco, anzi sento che sono arricchita quotidianamente. Ci pensi a te tra 20 anni, a 30 anni, dove sarai? Ci penso, ma non costantemente. Quindi per adesso va bene così? Sì, credo proprio di sì. Senti, dai dei consigli ai nostri ascoltatori. La valigia e la zavorra. Sara, per fare una scelta di questo tipo, che cosa bisogna portarsi dietro dalla vita precedente? Ma dalla vita precedente, determinazione e non ambizione, e anche un po' credere in se stessi, ma credere anche nei propri sbagli, perché dagli sbagli si impara sempre, e non da quelli degli altri, ma dai propri. Cosa bisogna buttare? Cosa bisogna lasciare indietro quando si cambia vita così? Ma forse bisogna lasciare indietro un po'... ma io penso... Lasciare indietro un po' tutto il resto, quello che ci si sente che suona vecchio, ecco... non saprei, io mi sono lasciata indietro molte cose, ma allo stesso tempo le porto con me quotidianamente, per cui non saprei dare una risposta definitiva, ecco. Quindi era però un'altra vita. Sicuramente lasciarsi indietro, penso, pensieri istanti, ecco, avere con sé tanta voglia di fare. Va bene, noi ti ringraziamo Sara e ti auguriamo buon lavoro. Grazie, anche a voi. Controindicazioni. Questo stile di vita è sconsigliato a chi scrocca di continuo il caffè dicendo «Oh, la prossima volta offro io». Chi promette di essere buono ogni Natale ma ci rinuncia a Santo Stefano. Chi si ferma per far attraversare le vecchiette e poi le spaventa suonando il clacson. Chi non fa mai una donazione dicendo «Tanto chissà come li spendono». Chi non cede il posto alle donne incinte, ma a quelle in minigonna. Ecco, noi abbiamo cercato con Fabrizio Intonti di costruire questo diciamo mostro, quest'uomo o donna con tutte queste caratteristiche negative, ma magari fosse così facile capire chi poi potrà o non potrà sostenere uno stile di vita completamente dedicato agli altri, anche perché magari a volte si scopre strada facendo ed è quello che cerchiamo di capire oggi. Passiamo dalla Georgia al Brasile, perché da Rio di Janeiro abbiamo Mauro Villone, benvenuto. Ciao. Ciao Mauro, tu sei in questa località famosa per chi vuole viaggiare, per chi vuole fare vacanza, però ci sei per uno scopo diverso, perché voi avete fondato, tu e Lidia Urani, un'associazione che si chiama Paraty. Di cosa si occupa? Allora, io è importante che dica per esattezza che l'associazione esiste già e fu fondata oltre 20 anni fa da Lidia con suo padre Franco Urani, che è mancato alcuni mesi fa, e allora io mi sono trovato in maniera, devo dirlo, molto poco eroica a continuare questo lavoro molto piacevole e molto interessante. Quindi l'associazione esiste da molto tempo, si occupa di seguire soprattutto i bambini. Noi ci occupiamo dell'affidamento a distanza di oltre 400 bambini ogni anno, che vengono aiutati da famiglie in Italia e in altri luoghi d'Europa, vengono aiutati finanziariamente negli studi. Cioè è una forma di aiuto molto consapevole, molto attenta, che non elargisce denaro e aiuti indiscriminatamente, ma aiuta chi studia e chi vuole andare avanti nella propria evoluzione sia culturale che professionale. Per cui sostanzialmente i 400 bambini, cioè il lavoro che è cominciato 20 anni fa ha permesso di portare la scolarizzazione dal 2 al 98%, quindi questi bambini che abitano in questa favela, che è una comunità di 3.000 abitanti, hanno completamente cambiato il loro destino e sono diventati, alcuni si sono, una cinquantina di loro in quest'arco di tempo si sono laureati. Sostanzialmente io e Lidia ci siamo presi molto seriamente, insieme a sua mamma Giuliana, la responsabilità di portare avanti questo lavoro nel futuro, che aveva cominciato Franco con loro oltre 20 anni fa. Ecco, tu hai detto che diciamo non è stata una scelta eroica, non è quasi come se fosse una cosa naturale, però c'è stato sicuramente qualcosa a cui hai dovuto rinunciare. Cioè, tu hai un'altra vita che, insomma, che devi conciliare con questo impegno, immagino. Assolutamente sì, non dico che non è eroico perché è molto divertente e molto gratificante. Sentivo l'intervento della ragazza di prima, molto interessante. Noi non siamo in Georgia, ma siamo in un posto che intanto è anche molto divertente, Rio. Dico che non è eroico perché ci piace, perché ci divertiamo. Effettivamente devi abbandonare delle cose, ma per noi è una cosa del tutto naturale, perché è vero, devi lasciare alle spalle, per noi non è stato difficile perché tutto sommato non ci interessa, molti aspetti materiali della vita di oggi che si fa in Europa o nel Nord America, non ci interessa proprio avere, possedere, utilizzare beni materiali o fare cose troppo, voglio dire, non mi interessa avere un ultimo modello di automobile o cose simili, mi interessa stare bene, quindi tutto sommato devi rinunciare a una certa disponibilità di denaro. Ma fammi capire, voi siete sempre in Brasile o siete anche, no, state anche in Italia? Noi siamo in parte, diciamo che passiamo diversi mesi all'anno qui in Brasile e un'altra parte in Italia. In Italia però ci occupiamo sempre di questa cosa, perché una delle cose che facciamo è cercare di raccogliere i fondi per portare avanti questo progetto, quindi siamo impegnati anche in Italia con questa cosa. Del resto noi a Torino in Italia organizziamo anche il Festival di Fotografia di Torino e ci occupiamo anche di altre cose, poi facciamo missioni fotografiche, però siamo anche qui in Brasile, abbiamo anche dei rapporti con i con molti fotografi brasiliani, facciamo un gemellaggio con Fotorio, quindi ci mischiamo un pochino ambe due le attività. Ecco, appunto, so che voi avete portato un po', insomma, la vostra attività di fotografi e di organizzatori, sì, del Festival della Fotografia nel tipo di attività che avete. La nostra, diciamo che se fossimo un'azienda, la nostra missione aziendale è quella di valorizzatori di persone comuni. La cosa che ci dà un'enorme soddisfazione è quella di non fare noi fotografi, ma di far fotografare le persone che non sono magari avvezze a fotografare, soprattutto i bambini, perché abbiamo fatto un libro fotografico bellissimo con foto realizzate da questi bambini, che non, alcuni non avevano mai visto neanche una macchina fotografica, hanno fatto delle foto talmente straordinarie che sono state esposte 2 anni fa a Fotorio, che è un festival internazionale. Abbiamo fatto un libro che è straordinario, che tra l'altro queste foto verranno esposte ad Arte Fiera a Bologna nel gennaio del 2011. Cioè, delle opere d'arte fatte da della gente, dei bambini anche piccoli, che non avevano mai visto neanche una macchina fotografica. E questo fa parte del lavoro che noi intendiamo fare, cioè quello che ci interessa fare è valorizzare le persone comuni, e questo crediamo che sia veramente necessario per gli scenari planetari del futuro. Cioè abbandonare, si parlava di che cosa abbandonare, abbandonare tutta una serie di interessi orientati al frivolo e al materiale e valorizzare quello che è, che sono le persone. Ecco, allora ringraziamo Mauro Villone e anche Lidia Urani, che non abbiamo sentito, ma insomma si occupa anche lei di questa associazione che, ricordiamo, si chiama Paraty. E se lo facessi io? Allora, come nello spirito del programma, noi sentiamo delle storie belle e forti, e ma, insomma, siamo sempre divisi, almeno io personalmente sono sempre diviso tra il pensare bisognerebbe farlo, bisognerebbe impegnarsi, e l'avere anche un po' timore di poi non riuscire a seguire degli esempi che sono abbastanza forti, abbastanza strutturati e avviati. Allora io, per sapere se ci sono sfumature, modalità e primi passi da fare, parlo al telefono con Francesco Petrelli, che è il presidente delle associazioni delle ONG italiane. Benvenuto. Buongiorno. Allora, noi abbiamo sentito 2 storie, diciamo, di persone che sono in una fase abbastanza avanzata, chi gestisce un'associazione addirittura non governativa e chi ha fatto tutto un percorso di studi. Ma quale può essere un modo, visto che noi parliamo di gente che fino a un certo punto fa una cosa e poi cambia vita, di avvicinarsi a un ONG se prima si faceva altro? Sì, io sono d'accordo con quello che diceva Villone prima, non si tratta di scelte eroiche, si tratta di scelte normali, e a volte si tratta anche di percorsi professionali, perché per fare cooperazione, per esempio, con le organizzazioni non governative è possibile anche fare un corso di studi e poi prendere un master e poi avvicinarsi ad una ONG e fare qualche esperienza per qualche tempo attorno a un progetto di cooperazione in qualche paese del sud del mondo. Questo è possibile e credo che dia senso certamente alla vita delle persone, che ricercano anche altro senso, ed è interessante perché non solo si dà ma si riceve, credo che si acquisisca un punto diverso più ampio. È significativa, anche se non è un progetto di cooperazione, la vicenda dei bambini fotografi brasiliani, perché la nostra caratteristica è quella di lavorare con le persone del posto, associazioni di donne, di contadini, istituzioni locali quando è necessario, in Africa, in America Latina, in altre parti del mondo. La cosa interessante è anche quella di mettersi in discussione, ovviamente avendo anche però capacità professionali, perché il partenariato, la partnership è un po' il nostro metodo di lavoro, cioè lavorare assieme significa scambiare, anche acquisire altri punti di vista rispetto a quello che tu hai. Poi tutto questo si declina in progetti, azioni col Ministero degli Affari Esteri, con la Commissione Europea, con le agenzie delle Nazioni Unite, quindi è un percorso professionale che ha una forte componente però di valore e di scelta anche individuale, umana e di arricchimento. Perché no? Ecco, però quindi chiariamo, parliamo di un cambio di vita che è proprio professionale, questo è un lavoro che si impara, oddio, sempre con, credo, con tutto il rispetto per chi decide di cambiare vita parzialmente facendo un po' di volontariato, però qui ci vuole proprio un percorso di studi apposito? Ci vuole una serie di cose, certamente un percorso di studi apposito, alcune università anche in Italia in questi ultimi anni si sono dotati di percorsi curriculari di cooperazione allo sviluppo o di master di specializzazione, questo è certamente un modo per cominciare e cominciare bene, naturalmente però serve anche, come dicevamo prima, la determinazione di avere un altro, di dare un altro senso alla propria vita, cioè insieme idealità e concretezza, valori e professionalità. Io però le devo fare due domande proprio molto concrete, perché appunto per chi magari non ha iniziato quando era il tempo giusto, perché noi in fondo parliamo di questo, per chi prima ha preso tutta un'altra strada, io le vorrei chiedere che tipo di lavori si possono intraprendere anche a un'età non giovanissima e soprattutto se c'è possibilità anche di guadagno, perché uno che magari deve lasciare un'attività remunerativa vuole anche sapere, ma qui si prende qualcosa, si prendono due lire e ci si sacrifica? Allora, c'è due componenti, una certamente è quella del volontariato, di un medico che va un anno in Africa, se poi un medico che lavora in una struttura pubblica è anche possibile perché la legge attuale sulla cooperazione glielo consente, poi ritornare al suo posto di lavoro, oppure altre persone che vanno per un mese a portare le loro competenze, la loro disponibilità, la loro apertura, e lo fa da volontario. E poi ci sono percorsi professionali, perché lavorare in un progetto di cooperazione vuol dire ovviamente anche avere per sé la possibilità di continuare a fare questo lavoro con passione, ma anche di continuare a farlo avendo una vita dignitosa, ovviamente, cioè, per questo non sono scelte eroiche, altrimenti lo potrebbero fare solo le persone ricche di famiglia o chi lo fa come scelta di tipo religioso, che sono molto importanti, ma noi proponiamo a persone normali di fare cose normali in realtà, quindi anche questo, a lavorare in un progetto di cooperazione è normale. E si guadagna anche se uno stipendio. Sì, sì. C'è un guadagno, c'è uno stipendio che è giusto che sia così, che sia adeguato, dignitoso. Ovviamente nelle ONG è così, certamente chi poi intraprende anche legittimamente carriere internazionali in organizzazioni internazionali guadagna di più, ma queste poi sono scelte che si differenziano. Personali, insomma, penso anche casi diversi. Certo. Io ringrazio Francesco Petrelli, ricordo anche il sito ongitaliane.it. Volevo sentire un ascoltatore, se abbiamo il tempo. Gianluca, pronto? Sì, sono qua. Ecco Gianluca, tu hai fatto una scelta di vita di questo tipo? Sei passato da un lavoro normale ad aprire una cooperativa sociale? Certo, sicuramente. È stata una scelta che è nata proprio da una volontà fortissima e da una passione che era quella della vela a un'altra passione che era quella di dedicarsi agli altri. Ho messo insieme queste due cose e nel 2005 abbiamo fatto nascere una cooperativa sociale socio-assistenziale e abbiamo fatto costruire un'imbarcazione accessibile per persone con disabilità anche motoria. Per cui noi dal 2007 siamo diventati attivi e abbiamo incominciato a portare sul lago di Garda tantissime persone attraverso altre enti che lavorano nel sociale, quindi per noi è stata una scommessa inizialmente perché abbiamo fatto un investimento grosso, io ho investito tutti i miei risparmi, però devo dire che la cosa adesso sta sempre avendo più successo, ci cercano sia in provincia qui di Trento che anche fuori regione, per cui sempre di più con il passaparola, perché la pubblicità su questa, nel nostro ambito funziona meno, ma sempre di più attraverso il passaparola stiamo agendo veramente bene e questa mi dà un'enorme soddisfazione. Grande, grazie Gianluca, e siamo purtroppo arrivati alla fine. Noi torneremo domani con altri giri di vita completamente diversi. Voi iscriveteci a girodivita@radio24.it o cercateci su Facebook. Grazie a tutti da Achille Corea, domani. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.